A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Presenza rilevata il 14 ottobre 2013 di 64.564 unità. Si tratta, come noto, di un numero molto superiore alle effettive capacità recettive delle 202 strutture penitenziarie. Oggi la capienza regolamentare è di 47.599 posti. Questi gli ultimi numeri delle nostre prigioni, ma quali gli effetti e quali le cause di questo sovraffollamento che potrebbe costare all'Italia ogni anno 60-70 milioni di euro di multa dall'Europa? Abbiamo portato il nostro microfono dentro le carceri. La situazione di quel mondo recluso, le risposte dell'amministrazione penitenziaria in questa puntata di A ciascuno il suo. In cella quanti siete? Siamo in 11. Quanti siete nella vostra cella? Siamo 9. Meno di 3 metri quadri a disposizione, privo di acqua calda per lavarsi, celle scarsamente illuminate, caldissime d'estate, fredde d'inverno. Sbarre, sbarre di ferro, sbarre, sbarre di ferro nero. Ha visto questo quadro la Corte europea quando ha condannato l'Italia a risarcire 7 detenuti, compreso Mino Torregiani, che ha dato il nome alla sentenza pilota, e compreso un cittadino marocchino assistito dall'avvocato Flavia Ursiuoli. Il primo era recluso a Busto Arsizio, il secondo a Piacenza, ma la situazione che entrambi hanno denunciato era uguale e ugualmente è stata giudicata da Strasburgo, che ha disposto per il primo 33.000 euro di risarcimento, per il secondo 15.000, non ancora riscossi però perché irrintracciabile. E molte altre volte l'Italia potrebbe essere condannata a pagare se nulla cambiasse, perché dalla Lombardia alla Sicilia sovraffollamento e degrado sono sinonimi di molti istituti penitenziari. Così, dopo il messaggio del capo dello Stato a Poggioreale e poi alle Camere, si discute tra veti e veleni di amnistia e indulto. 7 anni dopo l'ultimo provvedimento di clemenza, quante persone uscirebbero stavolta dalle celle? Anticipa i dati ad A ciascuno il suo direttamente il capo del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, che non nasconde la sua preoccupazione. È una preoccupazione che discende non solo dalla decisione della Corte europea di Strasburgo, ma innanzitutto da una realtà di un aumento vertiginoso a partire dal 2006 della popolazione detenuta, che è andata incrementandosi di fino al 2010 di circa 7.000 unità l'anno in media, un aumento veramente fortissimo al quale forse in modo non lungimirante non si era preparati. In che senso in modo non lungimirante? Perché vede, la popolazione detenuta italiana non è sostanzialmente diversa dal punto di vista statistico da quella degli altri paesi europei, anzi il cosiddetto tasso di detenzione, che in Italia è di circa 112 detenuti ogni 100.000 abitanti, è anzi un po' sotto la media europea. Si poteva ritenere che il numero dei detenuti anche in Italia crescesse, questo è un andamento diffuso. Ecco, quindi non lungimirante da parte della politica? Sia sotto il profilo di provvedimenti che probabilmente hanno irrigidito eccessivamente il sistema, soprattutto riducendo o talvolta eliminando la discrezionalità del giudice, e poi anche perché l'edilizia carceraria doveva essere aggiornata comunque. Con queste cifre potrebbe quasi di poter dire che gli effetti dell'indulto del 2006 sono stati totalmente vanificati, che quasi quell'indulto sia stato inutile. I numeri parlano in modo molto evidente. Prima dell'indulto erano presenti 61.000 detenuti, subito dopo l'indulto ci sono scesi a 39.000, come le dicevo nel 2010 abbiamo superato i 69.000. E quindi è stato un provvedimento, diciamo, dal fiato molto corto, per non dire quasi inutile. I numeri hanno un'evidenza distanza rispetto alla quale le parole servono poco. Chiaramente voi, per avere un'idea di quante persone potrebbero uscire con un indulto o con un'amnistia, dovete conoscere i termini sia dell'indulto che dell'amnistia, che sono chiaramente di competenza parlamentare. Però se ad esempio ci fosse un indulto come l'ultimo, cioè come quello del 2006, o un'amnistia come l'ultima volta, e bisogna risalire agli anni 90, avete fatto un calcolo di quante persone uscirebbero? Questo è possibile dirlo in modo abbastanza preciso, direi, in relazione all'indulto. Per l'amnistia il discorso è molto più complesso. Per quanto riguarda l'indulto, possiamo dire che un indulto di un anno avrebbe effetti su circa 8.000 persone. Di due anni avrebbe effetti, naturalmente sempre che fosse un indulto analogo a quello all'ultimo appunto adottato, avrebbe effetti per circa 14.000 persone. Quindi 14.000 persone per due anni, e se fosse come l'ultimo che era di tre, ne aggiungeremo altre 4.000. Altre 4.000, quindi 18.000 persone per un indulto a tre anni. Prima di arrivare a questo dibattito su un'ipotesi di provvedimento di emergenza come un atto di clemenza, ci sono state anche molte riflessioni, e lei stesso ha avuto anche molti colloqui col capo dello Stato. Ecco, le posso chiedere se avete condiviso o se lei gli ha espresso anche il timore che in mancanza di un provvedimento d'emergenza si possano ripetere anche situazioni di tensioni o di proteste successe in passato? Ho visto, ho constatato in questo anno e mezzo, poco più da che sono al capo del DAP, la grande attenzione e la grande sensibilità del capo dello Stato per i problemi carcerali. Ha fatto due visite, non solo quella a Poggio Reale, ma prima ancora il 6 febbraio scorso a San Vittore. Posso assicurare che chiunque veda quelle realtà non può non rimanere turbato, non si può rimanere indifferenti di fronte a celle fatte per una persona che magari ne contengono tre o quattro. Mami, mami. Nel più antico carcere milanese, proprio come nel più affollato penitenziario italiano, dove i detenuti hanno anche superato i 2.900 per una capienza di 1.503, a volte anche riuscire a mettere i piedi a terra può essere una conquista. Non c'è lo spazio neanche per poter stare tutti insieme giù dalle brande, sono 8 metri lordi, a tutti e sei non riusciamo a toccare il pavimento, dobbiamo scendere a turno per poter mangiare. Su due binari paralleli sembra così procedere la discussione sul provvedimento di clemenza. Da una parte le attese dei 60.000 detenuti, dall'altra gli scontri intorno alla possibilità che anche Silvio Berlusconi, l'ex premier condannato a 4 anni per frode fiscale, possa beneficiarne. Un fronte che ha coinvolto direttamente anche il Quirinale, dove più volte è salito lo stesso capo del DAP, Tamburino. Il messaggio del capo dello Stato, essendo finalizzato in modo espresso a una emergenza che è legata al sovraffollamento, e posto che certamente il sovraffollamento non è determinato dai reati di colletti bianchi, non può essere interpretato come se riguardasse i reati dei colletti bianchi, non può interpretarsi quel messaggio come se fosse finalizzato ai reati dei colletti bianchi. Che, per dirla esplicitamente, le polemiche si sono concentrate sul fatto che un eventuale provvedimento di clemenza possa o meno coinvolgere anche l'ex premier Silvio Berlusconi. Ecco, e quindi chi sta all'interno dell'amministrazione penitenziaria, come vive questo dibattito su amnistia, indulto e allo stesso tempo anche le polemiche che ci sono sulle eventuali ricadute politiche per l'ex premier? Chi sta dentro l'amministrazione penitenziaria, ma direi anche chi come me ha fatto per decenni il magistrato, pensa in termini di interesse del paese. Cioè, che cosa deve essere fatto per il paese, perché una situazione pesante per il paese, che può determinare anche conseguenze economiche persino pesanti, ma che innanzitutto riguarda l'immagine e la, come dire, la dignità stessa del paese, che cosa si può fare per migliorarlo, come si può intervenire. E questo è il problema che ci, diciamo, mi auguro come capo del DAP, ma ancora prima direi come cittadino, sia la stella polare che guida la saggezza dei rappresentanti del Parlamento che dovranno poi decidere. Cioè, capita, poi c'è il rischio che a volte, diciamo così, si perdano di vista le esigenze di migliaia di detenuti e lo stesso bene del paese per concentrarsi sullo scontro politico. In effetti, guardi, alcuni argomenti dovrebbero essere fuori da uno scontro politico, alcuni argomenti dovrebbero essere lasciati un po' in disparte rispetto a una competizione della politica quotidiana. Il carcere dovrebbe essere uno di questi. Sì. Come la vivete questo dibattito che c'è? Dal punto di vista di noi dei detenuti viene vissuto col fiato sospeso, cioè ogni minima accenno alla, vedi, mi viene la pelle d'oca. Ogni minimo accenno alla messia o all'indulto ci mette in agitazione, ci fa sperare. Poi si aspetta sempre. La prima cosa che si impara qui in carcere è aspettare. Certo, in questo posto ci sono capitato per mia scelta, nessuno mi ha mandato qui, ho fatto io qualcosa che non dovevo fare per essere qui. Però comunque si vive male. Sì, ok, pagare, ma nel modo giusto, ecco. Ma la domanda è: perché si è arrivati a celle così piene da scoppiare e quali sono gli effetti? E poi quanto costa alle casse pubbliche questo sovraffollamento? Di sicuro le casse dell'amministrazione penitenziaria sono vuote da tempo e anzi con forti debiti. A ciascuno il suo. Non mai può girare la porta alla nominata, vabbè. Però ci sono i corsi rieducativi, ci stanno un sacco di cose che si fanno, però non si possono fare, perché non tutti li possiamo fare, perché purtroppo si ammassaia. Certo, lei troppo. Che cosa fa? Ho fatto igiene alimentare, corsi ciliaci, dobbiamo fare un corso presepiale adesso. Giuseppe Ercolano, lei coordina un gruppo dei detenuti di Poggio Reale che qui a Napoli lavorano ai presepi. Ecco, che cosa sono queste che vediamo? Queste sono scenografie presepiali dello stile del Settecento napoletano. Questo è un tempio, appunto, che va alla Natività. Questa è una scena dei pecorai. Scorci di un presepe. Sì, sì. Quanti sono i detenuti che partecipano a questa sono iniziativa? Circa 30. Eppure il reinserimento e la rieducazione anche attraverso il lavoro sarebbe proprio la funzione della pena. Una pena che nelle celle scontano soprattutto gli arrestati per reati legati allo spaccio di droga, 23.094, la quota più consistente di detenuti, seguita dai condannati per rapina, 9.473, e da quelli per omicidio volontario, 9.077. Ed è questo il punto. Per cambiare qualcosa bisogna anche rivedere la legge che spalanca le porte del carcere per così tante persone per droga, ossia la legge Fini-Giovanardi? E poi non capita un po' troppo spesso che in cella restino e a lungo anche semplici indagati, arrestati in custodia cautelare e poi casomai assolti? Mai come con argomenti sensibili come questi, è necessario però ripartire dall'esattezza dei numeri con il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino. Posso dire solo questo, siccome ho seguito tutte le leggi in materia di stupefacenti dal 1975 in poi, mi sembra che c'è stato un inasprimento forse esagerato. Occorrerebbe delle norme che consentissero una maggiore proporzionalità. D'altra parte questo era vero nelle leggi precedenti, quando non solo si distingueva le cosiddette droghe pesanti e delle droghe leggere, ma anche vi era una maggiore attenzione, diciamo così, al caso cosiddetto lieve, cioè è proprio il caso di utilizzare il carcere per fatti che sono realmente di lieve entità? Questa è una domanda che io mi porrei. Andrebbe posta ovviamente al Parlamento. Un'altra fetta significativa dei detenuti delle carceri italiane sono quelli in attesa ancora di processo, di sentenza definitiva, quelli in carcere per custodia cautelare. C'è secondo lei un uso eccessivo? Noi in attesa di primo giudizio, cioè in attesa della prima condanna, abbiamo 12.000 persone. È un dato che è abbastanza allineato con la media europea, a differenza che in altri paesi che dopo la prima condanna mettono questi detenuti tra i detenuti condannati. Noi continuiamo a considerare in attesa di giudizio anche gli appellanti e i ricorrenti, che sono circa altri 12.000 detenuti. Con questo arriviamo a 24.000, è un numero elevato. Quindi quello è una cifra da scorporare. Da leggere appunto in questo modo. Dal mio punto di vista la custodia cautelare, più che essere usata eccessivamente a sproposito, ha una durata talora troppo lunga. Dunque i detenuti in attesa di giudizio sono sì tanti, ma nella media degli altri paesi europei. Senza alcun dubbio, invece, negli anni c'è stata un'impennata di ingressi in carcere per droga. Aumentano i detenuti, diminuiscono al contrario gli agenti penitenziari. 6.000 in totale quelli che mancano in tutte le prigioni d'Italia, 200 anche nel carcere più affollato come Poggio Reale, dove il cruccio principale della direttrice Teresa Abate è proprio quello di non riuscire a dare una risposta alle richieste dei più giovani. Abbiamo fatto dei corsi per guide turistiche spendibili sul mercato dopo, come pure quello dell'arte presepiale che oggi è spendibile sul mercato. Tutto questo non basta rispetto alle richieste enormi che abbiamo. Avete avuto un po' di tempo fa anche degli ispettori mandati dal Ministero? Abbiamo avuto un'ispezione inviata per verificare un attimino la situazione dei colloqui, le lunghe fila di familiari che erano in attesa, eravamo però a 2.900 detenuti. Queste sono appunto le ricadute concrete nella gestione difficile di un carcere quando c'è un sovraffollamento così. Una ricaduta può essere la gestione dei colloqui, una ricaduta la gestione anche delle visite mediche, dei colloqui che devono effettuare i vari operatori all'interno. E questo chiaramente ricade anche in termini di stress per gli agenti. Noi abbiamo 200 agenti in meno rispetto alla pianta organica prevista. Carceri dove ci sono meno di 3 metri per ogni detenuto, carceri che potrebbero costare di multa 60 o 70 milioni di euro all'anno per l'Italia se entro maggio 2014 nulla sarà cambiato. E proprio il sovraffollamento pesa già sulle casse esangui del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che in attesa delle decisioni su un eventuale provvedimento di clemenza mette a punto un piano carceri strutturale. E nel frattempo, come ci anticipa il direttore del DAP Tamburino, si prepara ad aprire altri 3.000 posti. L'equilibrio si ottiene innanzitutto con una filosofia di riduzione del ricorso alla carcerazione. La carcerazione deve essere un rimedio estremo. Questa è la filosofia di fondo che poi si articola in un aumento delle misure alternative, in un catalogo anche di pene che siano dissuasive, cioè che possano spaventare davvero chi vuol commettere reati, ma che non necessariamente debbono essere il carcere per essere dissuasive. Ora, cioè forme di interdizione, forme di... Anche forme certo di interdizione, forme economiche, forme di lavoro per la collettività, forme di restrizione anche presso la casa, il domicilio, ma inoltre si stanno completando e si stanno costruendo molte carceri nuove. La prossima che potrebbe essere aperta e consegnata qual è? Entro l'anno noi avremo una consegna di circa 3.000 posti. La prima è Voghera, ma abbiamo ancora Santa Maria Capovetere, sono 300 posti, Palermo Pagliarelli altri 300 posti, i lavori ultimati a Piacenza per 200 posti, abbiamo Livorno, 100 posti è già consegnato. I sindacati denunciano che ci siano un bel po' di debiti, un rischio crack per il DAP. Noi abbiamo, grazie a delle razionalizzazioni molto faticose, abbiamo avuto una diminuzione di spesa. Nel 2010 avevamo effettivamente 133 milioni di indebitamento, nel 2011 sono scesi a 100 milioni, nel 2012 sono scesi ulteriormente a 57,5 milioni. Il legislatore ha ripianato dei 57 milioni, 31 milioni, quindi l'indebitamento c'è, ma mi sembrerebbe improprio parlare di rischio di crack o di dissesto, insomma. Mami, mami, mami, 40 di 40 notte, a San Vittura c'ha fai bot. E voi cosa pensate dell'ipotesi di un indulto o di un'amnistia? Scrivetelo se vi va su Facebook, la pagina facebook.com/storiacce, o su Twitter, l'account è Raf Calandra. Trovate invece sul sito radio24.it e sul blog Storiacce anche le foto scattate all'interno delle carceri. Se abbiamo raccontato l'inferno delle carceri, fatemi però anche dire che almeno c'è sicuramente più trasparenza che in passato, e di questo vorrei pubblicamente ringraziare chi, come Luigi Pagano, numero 2 del DAP, lo rende possibile. Ciao a tutti, a presto!